La famiglia Brambilla più non pensa alla sua nobiltà, più non passeggia in favilla e al podismo soltanto si dà. Vanno in campagna e in collina e sul treno al ritorno si sa, portano qualche gallina da sgandolfare in città. La mamma la sta in casa, la nanà cosa fa? Fa la brava e lo mostra coi fatti, ha imparato a lavare anche i piatti. Il gagà, le soldate, il papà, Ricciamà, Brambilù le sergente maggiore, e che sciopa il pension per l'onor. Prima lassù al terzo piano, dai Brambilla sembrava un canino. Urli, cagnara, baccano, poi volavano i piatti in cortile. Adesso più non li senti e quando torna in licenza il papà, se sbattetti la tendi, stanci tu senza fiatà. La mamma la sta in casa, la nanà cosa fa? Fa la brava e lo mostra coi fatti, ha imparato a lavare anche i piatti. Il gagà, le soldate, il papà, Ricciamà, Brambilù le sergente maggior, e che sciopa il pension per l'onor. Le soldate, il papà, Ricciamà, quando si tratta de fas de l'onor, i Brambilla in d'accordo anche loro.